será. Scrivo al citofono che ci sei tu. Non devo più immaginarti. Passa un anno, un minuto, una vita. Che piacere che adesso sei qui. E andiamo a capo, la vita comincia così. Che piacere vedere. La vita comincia così. Oggi mi sveglio.